Incontri di Gianfranco Fabi. La musica dei Queen, Don't Stop Me Now, non fermatemi. E iniziamo l'incontro di oggi con Francesca Contardi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica. Buongiorno a lei. Francesca Contardi, amministratore delegato di Page Personal. Mettiamo insieme le due cose, Non Fermatemi dei Queen, Page Personal. Perché le piacciono i Queen? Perché questa canzone così simbolica? E cosa fa Page Personal, per chi non lo sapesse? Allora, i Queen mi piacciono perché è un gruppo accelerato, io dico, bella musica con ritmo e Don't Stop Me Now vuol dire non fermatemi, io sono una che non si ferma mai e credo che renda bene l'idea di chi sono. Poi soprattutto adesso, credo che è un periodo che richiede da parte delle persone di camminare ancora di più. E questo lo collego al lavoro che faccio, nel senso Page Personal è un'agenzia per il lavoro, quindi troviamo lavoro per conto terzi alle persone, prevalentemente neolaureati, neodiplomati, persone disoccupate, quindi... Quindi è all'interno del mondo del lavoro, diciamo che si è trovata lavoro cercando lavoro per gli altri. Esattamente. Quindi è un modo ottimo per trovare lavoro, ma c'è lavoro per chi cerca lavoro in questo momento. C'è comunque lavoro per chi ha voglia di lavorare. Io dico sempre che in questo momento di opportunità ce ne sono, bisogna essere flessibili, adattabili, chiaramente il vestito non è detto che sia perfetto, bisogna essere in grado di aggiustarselo. Da quanto tempo si occupa del mondo del lavoro? A me faccio dal 1997, quindi cominciano ad essere 15 anni pieni. Diciamo che è una buona esperienza. Lunga esperienza. No, era questo non tanto per chiedere l'età a una signora che non si deve fare, ma soprattutto per capire come sta cambiando il mondo del lavoro, come è cambiato in questi ultimi anni, ma soprattutto come sta cambiando adesso e come cambierà in futuro rispetto a quando lei ha cominciato ad occuparsi di mondo del lavoro, di posti di lavoro. Che cosa è cambiato? Nel 97 sicuramente era forse un po' più facile. Nel 97 incominciava a diventare difficile, nel senso che quando io ho cominciato a occuparmi il mondo del lavoro già incominciava a prendere una piega più moderna. Innanzitutto arrivava l'interinale in Italia, quindi la ragione per cui ho iniziato in questo settore, quindi che è comunque un'opportunità. Quando io sono uscita dall'università si andava in azienda o tramite contatto diretto perché si mandava il famoso curriculum cartaceo oppure Si conosceva qualcuno che ti poteva segnalare. Le agenzie per il lavoro hanno rappresentato nel 97 una rottura gigantesca. Oggi si va in un'agenzia, si porta un curriculum e c'è un intermediario che lavora per me a costo zero. Anche perché prima il sistema era totalmente pubblico, c'erano gli uffici del lavoro, gli uffici di collocamento. L'ufficio dell'impiego, sì, il collocamento, quindi si avevano i periodi di lunga disoccupazione, le agevolazioni. Il 97 è stato il momento in cui c'è stata proprio la rottura, il passaggio al mondo del lavoro moderno. Quello che sta cambiando, che è quello che vedo adesso con questa crisi o comunque questi periodi di difficoltà, è l'approccio culturale delle persone. Non so, adesso io forse faccio la parte dei vecchi, mi passi il termine. Ognuno fa la parte che si sente, ma non la parte di vecchia, ma la parte di chi ha esperienza in questo campo. Di chi, sì. Oggi la grossa difficoltà che io incontro è la voglia di mettersi in discussione. Le persone cercano sempre le cose più facili, il lavoro dietro casa, possibilmente non troppo faticoso. Ma questo non è un po' uno stereotipo? Perché c'è l'idea appunto che il giovane cerca il lavoro in banca, stipendio fisso, come si diceva una volta, poi invece scopriamo che i giovani vanno all'estero, cercano di fare esperienze, accettano molto più facilmente dei lavori anche provvisori, interinali, precari, quindi hanno un certo dinamismo. C'è una buona componente, potremmo dire metà e metà. C'è una parte che corre e che rappresenta sicuramente la parte veloce dell'Italia, quelli che oggi hanno voglia di fare, c'è una buona metà che in questo momento è comoda. Torniamo al 97, come mai ha deciso di occuparsi di mondo del lavoro? Cosa avrebbe voluto fare se non avesse seguito questa strada? Magari, che so, il pompiere, l'avvocato, l'astronauta? Allora, quando nel 97, quando sono del tutto casuale, sono rientrata agli Stati Uniti dove stavo facendo un'esperienza internazionale, era una di quelle appunto della parte che corre, che non si fermano, e in quel periodo c'era la più grossa, o comunque una delle più grosse agenzie per il lavoro che stava facendo ricerca e selezione al mio master. Mi hanno offerto un'opportunità, non avevo troppa voglia di rientrare negli Stati Uniti dove potevo rientrare. Ho detto, boh, proviamo. Mi hanno offerto un lavoro a Roma, io sono napoletana, ho detto proviamoci. Mio padre mi ha detto vai. Ed è stato un caso vincente, perché poi alla fine poi è diventato appunto amministratore delegato di questa società. Ecco, una carta d'identità di questa società, come si muove, come... È una carta d'identità abbastanza facile, siamo nati nel 99, siamo un'agenzia per il lavoro autorizzata, facciamo parte di un gruppo internazionale inglese quotato in borsa, che è il gruppo Michael Page. devo dire un caso positivo, perché è una città che è nata nel 99, quindi relativamente recente o giovane. Dal 2006 ad oggi siamo diventati una realtà consistente, quindi in questo momento abbiamo 6 filiali, abbiamo più di 100 dipendenti, quindi nell'arco degli ultimi anni siamo comunque un qualcosa di italiano che è cresciuto e che ha dato lavoro a tanti giovani. Ecco, quindi vi occupate di dare lavoro. Come sono cambiate le richieste delle aziende, direi dal 97 ad oggi, cioè di chi offre lavoro, di chi offre delle opportunità? Che cosa chiedono ai giovani di oggi che vogliono entrare nel mondo del lavoro? Ed è vero che c'è questa lontananza in fondo tra la domanda e l'offerta, questa incapacità in fondo della scuola di rispondere alle esigenze dell'impresa? La scuola sicuramente in questo momento orienta poco. Cioè, questo è un dato oggettivo. Fondamentalmente si esce dall'università, le persone non sanno quello che vogliono fare, ma di fatto, le faccio un esempio piuttosto semplice, l'Italia è un paese commerciale dove ci sono molti venditori, ma mi trovi un'università che insegna a fare il venditore. Adesso la sto banalizzando, magari qualcuno mi picchia, però effettivamente la sto veramente banalizzando. Però di fatto non c'è qualcosa che ti orienti verso quella strada in maniera molto chiara. E l'orientamento alla fine è abbastanza poco consistente, ma anche da parte del pubblico, cioè non c'è nessuno che ti dice vai lì perché il settore ti può dare delle opportunità. Basta pensare a quanti laureati in legge abbiamo e quante opportunità di avvocato ci sono sul mercato italiano. Beh, in fondo gli avvocati in Italia sono il doppio degli avvocati in Francia, quindi quello vuol dire che comunque una certa domanda c'è. Ecco, forse la domanda da parte dei giovani è ancora superiore rispetto alle offerte del mercato. Quindi ecco, quali sono per un giovane, diciamo, magari speriamo che ci ascoltino anche dei giovani che stanno orientandosi adesso magari tra gli studi superiori, l'università, tra 5 anni quali saranno le figure professionali più richieste? Beh, sicuramente tutti i profili tecnici, quindi il mondo dell'ingegneria resta comunque un mondo difficile perché studiare ingegneria è complicato, ma quando si termina il percorso di studi le opportunità sono sicuramente maggiori. Le dico, settimana scorsa eravamo a un master che abbiamo inaugurato a settembre con l'università di Lucca e c'erano 10 masterandi in meccatronica e forse c'erano 40 aziende presenti. Rapporto 1-4 è bello pesante nel mercato di oggi, eh? Quindi se posso dare un'indicazione, ingegneria meccanica con orientamento meccatronica potrebbe essere una materia complessa, però poi in ingegneria ci sono tante specializzazioni, insomma, sicuramente. Una laurea in economia e commercio oggi vale comunque tanto perché fondamentalmente apre tantissime porte in tanti mondi diversi. Si può fare il commerciale, si può fare il contabile, si può fare anche l'assistente di alta direzione con una laurea in economia e commercio. Quindi è veramente un passepartout. Oggi sponsorizzeremo un po' meno, con diciamo anche un po' di dispiacere, le lauree in letteratura, ad esempio, le materie umanistiche, dove ci vuole molta passione, molta cultura e sicuramente... Però possono costituire la base, ci sono anche dei laureati in filosofia che sono diventati direttori di giornali, quindi... Sicuramente, ma quanti direttori di giornali possiamo avere oggi in Italia? No, certamente la professione giornalistica è forse una di quelle in crisi in questo periodo, indubbiamente non è da consigliare ai giovani. Se era difficile in passato, è ancora più difficile adesso, dove le aziende stanno cercando di ridimensionarsi rispetto a un mercato che è completamente cambiato rispetto al passato. Però appunto, tornando al più vasto mercato, allora dicevamo dei requisiti dal punto di vista dell'istruzione, dell'istruzione professionale, del campo appunto dell'ingegneria o anche dell'economia e commercio, e da un punto di vista dei requisiti, diciamo così, personali, beh, sicuramente le lingue, direi l'inglese, ma oltre a questo, quale atteggiamento, quale carattere deve quasi indossare il giovane per entrare nel mondo del lavoro? Io direi una grossa voglia di apprendere, che qualche volta manca, nel senso che quando si esce dall'università si sanno molte cose teoriche ma molte poche cose pratiche, quindi l'apprendimento è un elemento fondamentale, cioè, l'avere le orecchie aperte per poter imparare. I candidati migliori sono quelli che io definisco spugna, cioè quelli che si avvicinano e assorbono l'assorbibile da qualsiasi persona li passi intorno. Cioè, quando un giovane va a fare un colloquio di lavoro, forse deve dimostrare più di voler apprendere che non di voler dare qualcosa all'azienda che dovrebbe assumerlo? Esattamente, in alcuni casi sì, può essere, soprattutto se si è molto giovani, trovare un terreno fertile su cui poter costruire e ricevere nel corso del tempo è un'ottima opportunità per entrambe le parti. Quindi anche una notazione, diciamo così, psicologica per chi va a fare un colloquio di lavoro, cioè non dimostrarsi di essere troppo padroni di sé. O essere al di sopra di quello che non si è. Io dico sempre che il colloquio deve essere il più trasparente possibile, cioè far passare le informazioni relative a se stessi, a quello che si è, a quello che si vuole. Ecco, vedremo magari qualche istruzione per l'uso, per il colloquio, per i giovani, per coloro che entrano nel mondo del lavoro o anche per coloro che devono cambiare il mondo del lavoro, impresa e così via. Nella seconda parte, restate con noi, ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Incontri. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me. Ancora con la musica dei Queen riprendiamo il nostro colloquio con Francesca Contardi, amministratore delegato di Page Personnel. Abbiamo detto un'azienda, un'impresa che si occupa di procurare lavoro, di fare da intermediario, una delle tante agenzie del lavoro, si chiamano così adesso. Assolutamente sì. È un mercato che è molto cresciuto negli ultimi anni, quello delle agenzie del lavoro, ce ne sono tante, voi siete una delle tante, avete anche un know-how che deriva da una società multinazionale, mi diceva, quindi fate parte di una realtà non solo italiana. Noi facciamo parte di una realtà mondiale, siamo presenti in 35 paesi, quindi ovunque ci sia un mercato del lavoro moderno, quindi 35 paesi nel mondo incominciano ad essere tanti. Quindi può darsi che un giovane venga da voi per cercare un posto in Piazza Duca d'Aosta a Milano e lo trovi invece a San Francisco? Volendo sì, diciamo che tendenzialmente il mercato del lavoro è molto locale, quindi quello che io consiglio ai candidati è che se sono interessati ogni paese ha il suo sito internet, quindi di rispondere direttamente agli annunci. Poi se è già transitato da noi possiamo mettergli un bollino, mettiamolo così, che ha già avuto un colloquio, che l'abbiamo già incontrato e lo possiamo sponsorizzare, però è il paese destinatario che poi decide le candidature da poter presentare. Certo, ecco, voi vi occupate quindi di avviare i giovani verso le imprese, ma anche di avviare chi ha perso l'impresa o l'impresa che ha perso qualche collaboratore verso altre imprese. Che percentuale c'è tra i giovani e i meno giovani, tra chi ha già un'esperienza? In questo momento potrei dire 50-50. Sono più difficili i giovani o i meno giovani? Io trovo più apertura sui meno giovani, nel senso che le persone che hanno già acquisito esperienza, che hanno già una maturità e che in questo momento hanno forse più bisogno, perché magari hanno una famiglia, hanno dei fabbisogni economici alle spalle, certo, sono più flessibili e più aperti. Sono più disponibili forse anche a cambiare. Si dice che in Italia c'è poca mobilità geografica, c'è maggiore disponibilità adesso o c'è ancora la mamma vicino? Quindi restiamo abbastanza localizzati. Io dico che normalmente è difficile spostare un candidato da Pero a Linate, che per noi vuol dire attraversare Milano, che per me è una piccola città, non è una città gigantesca. Roma a confronto è enorme. Restiamo ancora abbastanza localizzati perché molti comprano casa, hanno i mutui, hanno comunque l'aiuto dei parenti vicino se hanno bambini piccoli, soprattutto le donne. Cosa comprensibile, giustificata, indubbiamente non è un limite, però indubbiamente la mobilità comunque viene un po' trascinata un po' dalle difficoltà. Oggi sì, se la persona ha bisogno di guadagnare e ha delle competenze interessanti, in qualche caso dobbiamo spostarla, cioè è necessario trovargli una opportunità in Italia o al di fuori dell'Italia in qualche caso. Ecco, la crisi di questi ultimi anni ha anche ridotto un po' la media dei compensi, dei salari, degli stipendi oppure... Allora, la media è rimasta stabile. Questo in parte perché è garantito dai contratti collettivi. In Italia gli scatti contrattuali fanno sì che comunque, indipendentemente da quello che accade all'azienda, nel contratto collettivo ci sono degli scatti, ogni rinnovo quindi procura. E questo fa sì che si avanza lentamente, ma si avanza. No, non ci sono stati dei grossi cambiamenti sostanziosi, non percepiti ad oggi. Noi facciamo delle analisi sugli stipendi. Nemmeno per i livelli più alti, medio-alti dei dirigenti. Lì sa, come si sale velocemente, si scende velocemente, fa un po' parte del rischio del mestiere. Ecco, dove stiamo andando in questo nostro paese? Quali sono le sensazioni che da parte del mondo del lavoro si hanno di fronte a un paese che, insomma, molto spesso si piange un po' addosso? Diciamo che potremmo fare di più. Io sono una che appunto non si ferma mai, come la canzone dei Queen, che combatte, vorrei fare molto di più. Sicuramente è un paese che potrebbe fare molto di più per i giovani, potremmo reagire anche meglio. Il piangerci addosso non ci aiuta, nel senso l'idea di piangerci addosso io la combatto costantemente, cioè in questo momento c'è crisi, bisogna combatterla, non è che piangendo risolviamo il sistema. Ci sono molte persone che lo fanno, che reagiscono, ci sarebbero molte donne che vorrebbero farlo ma che in questo momento non possono farlo. Io sto combattendo lì dove mi è possibile il fatto che comunque si parla tantissimo di donne al lavoro, di possibilità di carriera, di crescita. Il numero 2 di Banca d'Italia ha detto che se ci fossero più donne sul mercato del lavoro la produttività italiana crescerebbe del 7%, è un dato fortissimo. Come le vede le quote rose? Va bene tutto, adesso stiamo parlando di quote rose in determinate aziende con partecipazione pubblica e quant'altro, almeno quelle approvate ultimamente, parliamo sempre di livelli molto alti, il problema è sotto, certo, perché le donne alla base ci sono, non arrivano in alto, è normale che si fermino. Ma non per colpa loro? Anche per colpa loro, io bilancio le cose da entrambi i lati. Una parte è colpa delle donne, perché le dico, stare a casa e accudire un figlio piuttosto che alzarsi la mattina e andare a lavorare, probabilmente è più piacevole stare a casa con un bambino. Quindi se c'è la, certo, possibilità, oggi io stare a casa con mio figlio, insomma. Sì, allora non parliamo di colpe, per scelta loro. Per scelta, volontà, scelta. Per volontà. Dall'altro lato sicuramente manchiamo totalmente di supporto e di aiuto, totalmente. Ecco, lei ha avuto e ha ancora, penso, un'esperienza anche come timoniere di barca a vela, immagino. Ecco, se cala il vento, cosa si fa? Ah, normalmente bisogna misurare le manovre al millimetro. Vuol dire che bisogna aspettare con estrema pazienza, ecco, regolare. Con i Queen abbiamo detto non fermatemi. Ma infatti non ci si ferma mai in barca. Non ci si ferma mai, anche se cala il vento. Anche se cala il vento. Oh, si soffia, ci si muove, si mangia. Normalmente nelle pause di vento si mangia moltissimo. No, però normalmente quando cala il vento l'attenzione triplica, perché bisogna avere un'attenzione doppia e manovrare la barca lentamente, ma continuare a manovrarla. È ancora peggio se c'è vento contrario. Ma lì è divertente. Usando un po' questa metafora, qual è il vento contrario per il sistema del lavoro di oggi? È arrendersi. Cioè, secondo me in questo momento se la gente si arrende, si ferma, io dico che oggi bisognerebbe passare da una logica di lavoro dipendente a lavoro intraprendente. È una frase che ho letto in un libro di recente, quindi non è mia, è di qualcun altro, e lo trovo molto centrato. In questo momento fare il dipendente, aspettarsi che sia l'azienda soltanto a darti, non porta nulla secondo me. Essere intraprendenti e quindi fare comunque parte del meccanismo e di trascinarti, quindi di essere motore attivo, è il nostro lavoro, la nostra vita, è il nostro modo di, il lavoro è vita di norma, certo. Fa parte integrante dell'azienda. Questo visto da un punto di vista diciamo personale, in un certo senso anche un po' psicologico, guardando un po' la persona, come la persona si atteggia di fronte al mondo del lavoro. Ma se guardiamo un po' anche il mondo del lavoro, in fondo è anche una struttura, anche un elemento che ha delle regole, che ha dei comportamenti, che ha delle prassi. Guardando a questa struttura, cosa ci sarebbe da fare? Quale riforma lei con la sua esperienza proporrebbe per questo mondo del lavoro così complesso, di cui si parla tanto di riforme e poi ci si accorge che le riforme in fondo rischiano di complicare un po' le cose invece che agevolarle. Oggi dovremmo semplificare, credo che la parola sia semplificazione. Il mondo del lavoro italiano è fatto di N norme, anche l'ultima riforma Fornero, la legga, cioè un buon giurista fa fatica a leggerla, e se un giurista fa fatica a leggerla le lascio immaginare un capo azienda straniero. Io non mi ci metto neanche a discutere con i miei capi. Ecco, si parla di diritti, le regole sul lavoro servono per affermare i diritti dei lavoratori di fronte alla protervia dei padroni che se no... Schiavizzano e distruggono. È vero, ci possono essere anche dei casi negativi, io non dico di no, ci sono casi in cui effettivamente l'approccio è sbagliato, ci sono casi anche in cui il dipendente ha degli approcci non corretti, bisognerebbe trovare la giusta via di mezzo in entrambi i casi. Io trovo che il nostro mercato del lavoro è veramente... molto complicato, sia da legge da parte del lavoratore, sia da parte del datore di lavoro, in entrambi i casi. Ecco, voi siete presenti, diciamo, in 35 paesi esteri, qual è il paese in cui le cose sono più fluide, in cui il mercato del lavoro funziona meglio? Basti guardare l'Inghilterra. E le dico, io ho un mio ex collaboratore che è andato via a novembre dell'anno scorso, ha lasciato lui e la sua compagna, hanno deciso di partire per l'Inghilterra per trovare un'altra opportunità, sono partiti senza lavoro, nell'arco di un anno hanno cambiato 3 lavori. Senza nessun problema, tranquillamente. Chiaramente in Inghilterra si licenzia molto più facilmente, ma il mercato è molto più aperto. Certo. Regole chiare, si entra. Queste sono le condizioni. Come lo vede il futuro dell'Italia, del nostro paese, sotto questo profilo in cui appunto ci sono queste viscosità, ma ci sono anche appunto almeno metà dei giovani, mi diceva, che hanno comunque quell'esuberanza irrazionale che può portarli a fare delle scelte, ad avere coraggio, ad affrontare questo mondo del lavoro in maniera costruttiva? Io lo vedo sempre positivo, ma perché per carattere vedo sempre positivo, nel senso non si può ragionare in negativo. Vedo positivo perché comunque dalle crisi si impara, dalle crisi spesso sotto pressione l'italiano da molto di più, e sono convinta che ne usciremo ancora e bene. Quindi un po' cambiare un po' la scuola, mi diceva, queste cambiare sono le un regole. Po' la scuola. Cambiare un po' anche l'atteggiamento verso il mondo esterno, essere un po' più mobili, un po' più disponibili a cambiare città, a cambiare professione. Non tutte le ciambelle riescono col buco, dipende dal proprio fabbisogno, nel senso, in questo senso, soprattutto per i giovani, secondo me all'inizio bisogna essere molto flessibili. Io da Napoli mi sono spostata negli Stati Uniti, poi sono rientrata, poi sono andata a Roma a trovare il mio primo lavoro. Oggi vivo a Milano, mi farebbe molto piacere vivere vicino a casa di mia madre, non mi è possibile, ma il venire a Milano mi ha permesso di crescere. Se questo è un esempio, adesso non tutti devono far questo, però... Indubbiamente. E come ultima cosa, diciamo, rivolto un po' alle aziende, l'atteggiamento delle aziende deve essere forse un po' più aperto verso i giovani, cercare di avere più fiducia verso le possibilità di rompere un po' gli schemi, di non affidarsi solo alle vecchie procedure per cercare invece delle soluzioni nuove. Ma credo che le aziende in questo momento siano molto aperte ai giovani. I giovani portano pensiero nuovo, portano disponibilità, flessibilità. Io sarei aperta anche verso i vecchi, farei un buon mix fra le due cose, competenze di persone professionalmente senior e giovani che portano idee nuove. Soprattutto se il sistema poi riesce a crescere, forse ci può essere posto per tutti. Assolutamente sì. Grazie a Francesca Contardi, amministratore delegato